Andare alla Zanzara porta sfiga, anche perché loro cercano questo. Allora, aspetta. Questo lo sta dicendo Red Ronnie. L'ultima volta. Io mi sono stufato. L'ultima volta io gli ho dato fiducia e hanno fatto delle ironie sul terremoto. Allora, ciao. La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Zanzarosi, contattateci all'800 24 00 24 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Vuoi mandare Cruciani a fanculo? Fallo con WhatsApp 393 71 71 701. Bella soprattutto la prima di voce, eh? Bella la prima di voce, non è male, sembra quasi una professionista della voce, per carità, eh? Lorenzo? Sì, sì. Non bisogna capire male, eh? Tu interpreti sempre male le mie parole. No, non c'era un double meaning. Allora, non c'era. C'è una cosa molto semplice, i signori... Hai mangiato l'agnellino per Pasqua? No, sai che non ho mangiato l'agnello in realtà. Ecco, ho mangiato pollo e... pollo e anche coniglio, molto coniglio, sì. Molto buono, ma non ho mangiato l'agnello semplicemente perché non mi andava di mangiare l'agnello. Ma io non lo mangio spesso l'agnello, poi lo mangerò una o due volte l'anno e non per Pasqua. Allora, i signori, quei quattro poveracci che sono venuti qua sotto... Sette, non lo so quanti erano, magari no, altri nascosti. Filmati. Vabbè, insomma, quelli che sono venuti qua sotto e che hanno tentato di aggredirmi erano forse animalisti, ma certamente non ambientalisti, perché hanno lasciato il fumogeno, uno o due fumogeni, quelli che avevano acceso, tipo stadio, no? All'inizio della trasmissione, cioè quando sono arrivati qua sotto, alle 18.30, lì sul selciato, no? Così, senza buttarlo nemmeno nell'immondizia. E poi hanno lasciato anche il loro striscione, che adesso è appeso qui, tu non puoi vederlo sulla webcam, no. È appeso qui no. Al vetro dello studio, lo striscione in cui si diceva hai superato il limite, vogliamo molto il faccia bene, a faccia. Molto bene, bravi questi ragazzi, formidabili quegli anni in cui noi andavamo ad assediare c'entra? La Radio 24 e tutti gli industriali li assediavamo, male che abbiano lasciato soltanto questi reperti, andava sfondato con un cingolato quella vetrina arrogante che gestisce la radio, quel fortino dentro il quale sono rinchiusi gli uomini del Sole 24 Ore che ora dopo ora costruiscono la propaganda della cosiddetta Confindustria. Andava quindi, stai zitto, sfondato con un Panzer, quel muro di cortina, quel medioevo ellenico che si chiama Radio 24 e Confindustria maledetta, andava sfondato tutto e andavate presi a sassate andavate presi, molto bene, una ribellione di compagni e compagni spontanea che dicevano no al capitalismo selvaggio, questi dicevano i compagni. Grazie Capanna, grazie. Quindi molto bene. Voglio ringraziare, ma io non ringrazio mai nessuno, però questa volta lo voglio fare. Le tantissime persone. Sì, Andro Mercù che ha aperto la porta. No, quello vabbè, lasciamo perdere. No. Non commentiamo. Il signor Mercù che ha aperto la porta, non che non sono educata. Non commentiamo perché operato. Una delle poche volte in cui una delle poche volte in cui non mi sono incazzato. Ottimo, però Mercù. aspetta ottimo, un attimo. Ottimo Mercù che ha aperto la aspetta porta. Aspetta un attimo. Vedi no, mi fai parlare o no? Allora, voglio ringraziare le tantissime persone che mi hanno scritto dappertutto, su Facebook, anche quelli che mi hanno insultato, grazie mille. E c'è l'Associazione dei Cacciatori Italiani che vorrebbe qualche membro, naturalmente membro nel senso di componente, non membro in un altro senso. No, Parenzo, magari capisci male, no? No, no, capisco. Allora, tutto, qualche però, membro dei Cacciatori Italiani vorrebbe farmi presidente ad honorem, sì, dell'Associazione dei Cacciatori Italiani, eccetera. Sì. Ti vorrebbe mettere sul muro impagliato. Devo dire, no, al contrario, i cacciatori. No, certo. Io sarei orgogliosissimo e anche molto proud, come si dice, no? Molto... orgoglioso, sì, sì, orgoglioso, sì, l'ho già detto. Sarei molto orgoglioso di questa cosa qua, lo dico sul serio. Presidente ad honorem dei cacciatori italiani, sarebbe veramente molto molto bello. Poi è successo un fatto molto particolare, adesso non faccio i nomi anche se li ho pronti, i nomi uno per uno qua davanti, di quei fenomeni da baraccone, i quali professano a parole la non violenza eppure mi volevano pugile. Cioè, mi volevano lì ad affrontare quei quattro pazzi che magari avevano un coltello, un bastone, che volevano picchiarmi nel corso di una trasmissione radiofonica, perché eravamo nel corso di una trasmissione radiofonica. Cioè, hanno detto, ah, che coniglio, sei scappato. Ma scusate, ma che cosa devo fare? Affrontare, a prescindere dal fatto che sono donne, uomini, che non me ne frega niente, cosa significa che sono donne? Perché le donne non picchiano? C'erano donne, ma chi te l'ha detto? Ma c'erano donne brigatiste, perché che sparavano in testa. Non si possono picchiare le donne. Ma non è vero, ma questa è un'altra stronzata. Non si possono picchiare, che vuol dire? No, certo, non si può picchiare nessuno, non in quanto donna. Allora, io al vostro livello non scenderò mai. Non alzerò mai le mani addosso a uno di questi. Mai. Ricordatevi, mai. Però a parte animalisti, vegani, e purtroppo ci sono un sacco di trasmissioni in televisione nei prossimi giorni dove andrò, non è che la cosa mi vada tantissimo, devo dirvi la verità, vado con piacere. Il tour. No, vado il tour. Con piacere domani sera dall'amico Luca Telese che ha preparato una bellissima trasmissione, mi dicono, su questo tema. Però iniziamo con l'avvocato professore Carlo Taormina, vai, l'avvocato professore, sì, Carlo ad iceberg, Taormina, no? Ad iceberg, credo venerdì sera, si parlava di Islam. Si parlava, sì, sì, se l'è preso con Islam, una deputata del PD, una cosa vergognosa proprio. Calma, sì, calma, sì, calma, schifoso, calma, un momento, sentiamo prima, sentiamo. Per chi conosce il Corano, per chi conosce le regole musulmane, la sa perfettamente islamica, che il meglio che ci può essere è una condizione della donna che tutti quanti conosciamo, dove è oggetto e non soggetto. Invece è una considerazione che del fedele come persona, è una donna che deve essere considerata tanto e quant'altro. Quindi voglio dire, sì, questo fantastico. È quanto di meglio, quanto di meglio. Di meglio gli italiani. Poi sanno fare. Il passaggio ulteriore è il terrorismo. Perché tutti i musulmani, silenzio, sono terroristi? Avvocato! Allora, tutti gli uomini che ammazzano le loro mogli in sentendo? Casa sono tutti terroristi. Avvocato, mi stai sentendo? No. Dimmi, ma sì, che cavolo dice? Ma no, che dice? No, che cavolo dice lei? Si faccia un po' stuprare, tanto per fare integrazione. Dai mariti a casa, sì, fatti un po' stuprare dai mariti, stuprare, dai compagni, dai fidanzati. Leggo ogni tanto quello che succede, vai, nel nostro paese, vai, si documenti un po' bene, meglio. Fa bene. E non sono ti musulmani. Ti fa bene per capire. Avvocato, però... Ti fa bene per capire. Però, avvocato, metti le corna, è grave. Silenzio, avvocato. Capito? Pazzo, capito che ha detto? Capito, ha detto? Vai a farti stuprare, vai a farti stuprare. Ma come si fa a dire una roba simile? Ho due paroline da dire. Io non voglio veramente rivolgermi a nessuno, perché non me ne frega niente. Però uno che scrive e Cruciani si stupisce pure, Andrea Scanzi, il quale professa la non violenza e poi parla di questi come dei ragazzini senza sapere un cazzo. Non sai un cazzo e parli. Ma lasciamo perdere, non me ne frega niente nemmeno di citarlo, capito? Cioè, a parte le sue considerazioni sulla radio, di cui non mi fotte nulla, non è che lui che decide se sono stanco o non sono stanco, ma sono gli ascolti. Dunque, mettiti l'anima in pace. Lasciamo perdere, dai, lasciamo perdere, sennò mi escono brutte parole. Sennò mi escono veramente brutte. E Cruciani si stupisce pure. Ah, vai, vai a pescare, vai, vai a pescare, vai, vai a pescare. Cioè, la violenza va bene, viene commentata solamente quando riguarda gli amici, capito? Quando riguarda gli amici è violenza, quando riguarda gli altri no. Si parla di quattro ragazzini, eccetera, eccetera. Poveraccio. Oh, ma la presa per il culo viene da alcuni geni che hanno creato una serie che si chiama Vegan Chronicles, sì, cronache vegane. Ma senti questa roba pazzesca del campo di addestramento per vegani sullo stile di Full Vegan Jacket, anzi di Full Metal Jacket trasformato in Full Vegan Jacket. Qui le regole sono molto semplici: niente carne, né uova, né latte e derivati, niente seta, lana, pelle, pellicce o pellicciotti. Voi siete la feccia dell'umanità, il degrado della società, destinati a vivere una vita di rinunce, di sacrifici, di prese per il culo, di merda tre volte al giorno e di piedi freddi. Qui voi suderete, mi pregherete, mi implorerete, ma una volta usciti sarete delle perfette macchine antispeciste. Mi sono spiegato? Sì, signore! Non vi sento cazzo? Sì, signore! Soldato palla di tofu, sei pronto a assorbirti tutti i giorni le stesse domande da gente comune? Sì, signore, lo sono! Non ti credo, perché sei vegano? Motivi etici, signore! Come fai a vivere senza carne? Esistono molte alternative che non si conoscono, signore! Come assorbi le proteine? Derivati dai glutine e legumi, signore! Hai carenze? Faccio l'analisi ogni mese, valori regolari, per un po' basso, signore! Come fai a vivere senza McDonald's? Ah, io da McDonald's entro solo dalla vetrata, signore! Per Dio, palla di tofu, sei talmente preparato che mi fai schifo! B12 per te! Grazie, signore! E adesso, tutti a prendere un hamburger! Sì, signore! Ti ho inculato! Il vegano non si abbatte! Il vegano non si abbatte! Di latte e uova se ne fotte! Di latte e uova se ne fotte! Neanche carne e pesce più! Neanche carne e pesce più! Affanculo il barbecue! Affanculo il barbecue! Libero salame in libero stato, libero salame in libero stato. E traffico. Pantera millesimato, l'IRP di Infracomitalia per le aziende vitivinicole, sempre col TH. Vi presento La Zanzara. Peppe Cruciani, se non era piglianuzzo Baresoni, i veganessi un culo te rompevano, che senza soldi. La traduzione dal siciliano è: se non era per Barisoni, i vegani ti rompevano il culo senza darti nemmeno 200.000 euro, capito? Questo è buono. I pacifisti animalisti di venerdì, sentite, fronte animalista, fuori, fuori dalla radio, fuori dalla radio. Eccolo qua. Esatto, quando uno provato così vuol dire che guardalo, guardalo. Si aspetta. Ma vai dentro, vai, no? Testa di cazzo. Cruciani, tu non sai quanto vorrei averti qua. Ma guarda te che scemo. Ma sta dietro ai veri, non viene fuori. C'ha paura. Giù le mani dagli animali. Ti preoccupare che veniamo ancora. Sta lì dietro ai veri. Vieni, coglione, vieni. Beppe, però. Ma cazzo, non ho capito un cazzo. Ti sei cagato addosso. Sei cagato addosso. Vabbè, corri, non corri più ora? Non corri più? Oh, che dicono i pacifisti alle vongole, alla Scanzi? I pacifisti dei Novantri, solo per gli amici come Scanzi, che dicono? Cosa dicono? Che ho... giorni fa, Giuseppina, a parte che cazzo vuoi, ma chi t'ha chiamato, chi t'ha conosciuto, Giuseppina, è arrivata a ospitare una capretta, le ha dato un nome, Zanzarina, ci ha fatto qualche foto insieme e si è vantato di ricordare che a settembre quella capretta morirà con un colpo di pistola alla nuca. No, veramente il racconto di come si ammazzano gli agnelli, che tu lo voglia sapere o no. Già solo questo dalla misura delle sue sensibilità e moralità. Ma vai a fare in culo, va. Adesso la sensibilità o la moralità si dimostra dal fatto che uno racconta come muore una capretta. Ma è proprio un deficiente, come tutti quelli che non distinguono tra le idee e la violenza. Cioè, siccome ci sono 4-5 pazzi che ti vogliono picchiare, allora se non ti speriamo di no, se non ti volessero proprio picchiare, vabbè, lì, ma dico, ma stai ragionando facevano sul serio? Un po' di casino, erano 4-7 grotteschi pazzi scatenati, dai. diamo fuoco alle polveri, dai. Paolo D'Ancona, vai, le polveri in senso ovviamente, no, sennò qua la gente capisce male, capito? Paolo D'Ancona, vai. Incendiare. No, io con io di quelli come Scanzi non voglio nemmeno parlare, capito? Mi dispiace pure aver parlato, è proprio un deficiente, capito? È proprio un deficiente. Paolo D'Ancona, dai. C'ha veramente ragione, Crociani. Io molte volte sono in disaccordo. Ma io potrei anche avere voi. Torto, anzi, chiamassero quelli che dicono che ho torto. Non è un problema. Io mi confronto con le idee, non con i deficienti, capito? Ma Paolo, vai. Io guarda, non vedevo che passasse il mese per richiamare e dopo Pasqua questo regalo. Io, guarda, se fossi stato lì a Milano, avrei fatto un comando per menare a quei cresta di cazzi. Perché, vedi, ma non bisogna menare nessuno, nessuno. Peppino, è chiaro che se aggrediscono mia figlia proteggo e picchio, no? Cioè... Quelli lì sono persone che vanno in giro anche con 4-5 cani che fanno questi... Ma non lo so con che vanno in giro, non mi interessa. Zareta me li conosco, e tutti quanti che vanno in giro col cagnolino che poi magari vede un bambino che muore di fame per te, manco lo guarda, capito, sti stronzi. Io siccome c'ho anche un ristorante per Miami, tocca fare il ristoratore, e te non te rendi conto, quando entra uno di questi qui con gli animalisti col cane, no? Ma perché uno deve entrare col cane al ristorante? Vabbè, ma questo è un altro discorso, giustamente. No, ma se allora metti proibisci l'entrata a quelli col cane. Proibisci, ma dopo esistici che sei un imbecille, sei un delinquente, perché ti trattano così, capito? Come ha fatto te, uno addirittura col gatto l'altro giorno, con il gatto. E vabbè, il gatto, amico mio, metti la scritta davanti, non voglio animali, lo puoi fare. Ma per colpa di quella stronza dalla Brambilla, che ha fatto un decreto tempo fa, non so se sono sapete. Che decreto ha fatto? Ha fatto un decreto, poi so che è caduto, un che decreto. Uno può portare i cani nei negozi, nelle gallerie, nei treni, dentro no, le vuole pure vuole pure portare i cani dentro i supermercati, cioè, a leccare magari le cose che stanno lì, ma che leccare, quello è giusto, carrello, ha detto, ma scusa, se su 100 persone 99 non c'hanno il cane, perché uno deve mangiare quel cane vicino, no? Magari non puoi mangiare. Vabbè Paolo, ciao, ti ringrazio, ciao. Antonio, provincia di Perugia, vai. Oh, meno male, ciao Peppe. Allora, guarda, sto a Munciere le pecore. Sto sentendo, sì, amico mio. Sì, va bene. Allora, ti volevo dire. Latte che di pecora è ottimo, eh? Senti le pecore, senti. Ti volevo dire che sono 2, 3, 4 anni per Pasqua quando mungo le pecore. Sento sempre questa storia di. Degli agnelli. Sì, ma tu che fai? No. Li ammazzi pure? Porco cane, guarda, il giorno di Pasqua l'ho scannato uno per un amico mio. E sì. Il pomeriggio per far piacere all'amico. Ma che hai fatto dopo? L'hai mangiati subito? No, io non l'ho mangiato perché lo mangio il giorno avanti e il giorno dopo. No, ma dico, questi che hai ammazzato il giorno di Pasqua o il giorno prima, si possono mangiare subito? Beh, diciamo che sarebbe preferibile aspettare un pochino, ma però cioè, ma tu ti senti in colpa quando li ammazzi? Neanche per idea, perché guarda, io te lo giuro, sì. Uno mi è nato un mese fa, è nato disgraziato, io l'ho allattato per arrivare a un mese per arrivare a farci la carne, ecco. Punto. Beh, questo l'ho capito, infatti ti sto chiedendo se ti senti in colpa. No, non ti senti in colpa. No, neanche per idea, perché il mio lavoro, è il mio modo di campare. Mettimi vicino, Antonio, mettimi il telefono vicino a una di queste pecorelle che bellano, così mi accusano di strumentalizzare queste no, cose. Bellissimo. Questo è bellissimo. No, non strumentalizzi niente e poi mi dispiace. È tanto la vita, che... ma non ti preoccupare, queste sono cazzate. Guarda, fai una vita molto più, diciamo, io sono un privilegiato rispetto a te. Dai. Ti sentito per telefono perché ti sento molto. Grande, un saluto a tutti gli allevatori, coltivatori italiani, gente vera, no. Gente che lavora, non come questi cazzoni che scrivono minchiate come ha scritto Scanzi e come quelli che stanno qui davanti non c'hanno un cazzo da fare dalla mattina alla sera. Antonio, fammi sentire la pecora che bella, dai. Ma poi che cazzo è Scanzi? Perché devo parlare di Scanzi? Parenzo, toglimi dalla testa questo nome, ti prego. Toglimelo dalla testa. No, ma ho letto una cosa adesso, capito? Il diritto di critica, ma dai. Ma chi sono in cula, dai, va basta. Benissimo. La prossima volta che lo pronuncio riprendimi, ti prego. Dammi una botta, no, non siamo vicini. Dimmi qualcosa, mettete la campanella, fate suonare la campanella la prossima volta che lo nomino. Ti prego, fallo. Antonio, mettimi il telefono vicino. Come? Mettimi il telefono vicino a sti agnellini. Gli agnellini sono dietro le mamme, dai. No, dai. La pecora, dico, la pecora. Con le mamme, dai, lascia stare. Chi è che sta belando? Chi è che sta belando? E chi? Il maiale, la pecora belerà, no? Sì, li sento. Va bene, dai. Va bene, Anto. Noi li amiamo, questi animali qua, li amiamo vivi e morti, giusto? Li amiamo da vivi e li amiamo anche da morti, o no? Quando sono vivi, perché arrivano al momento loro e poi ognuno è la sua, dai. Vabbè, Antonio, viva la vita, dai, viva la libertà. Ciao, ragazzi, ci sentiamo tra poco, dopo il giornale radio. Siamo qui, vive Vegeti, ciao. Anche a Jersey City, in New Jersey, si ascolta la Zanzara. Beh, siamo al top. Dal 31 marzo, Renzo Martinelli è al cinema con il suo nuovo film, Ustica, una verità inconfessabile. Vedi quella sagoma scura laggiù? Quella è Ustica. Il 27 giugno 1980, il volo Itavia Bologna-Palermo precipita in mare al largo di Ustica. 81 vittime. Una tragedia, buonasera. Per più di 30 anni, ipotesi e smentite sulla verità. Tra indagini, reticenze e false testimonianze. Su Radio 24, il film diventa un radiodramma. Il dolore di una madre, l'indagine di una giornalista, la ricostruzione di una verità. Questa è la prova che c'è stata una collisione in volo. Ustica, una verità inconfessabile, di Renzo Martinelli. Da giovedì 31 marzo al cinema. Info su radio24.it. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Vi presento La Zanzara. Zanzarosi, contattateci all'800 24 0024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Parenzo, ma come cazzo ragioni? Dire che è colpa di Cruciani perché ha provocato con un salame è come dire che è colpa di una ragazza che sta violentata perché andava in giro in minigonna. Cazzo. Marta, ma lo sai hanno picchiato Cruciani? Ah, ma è morto? Cruciani, sei come i napoletani che giocano coi fuochi d'artificio e poi sai che qualche volta ti salta la mano. Cruciani, la prossima volta che questi tizi ti vengono a trovare, invece di Barrisoni come mediatore culturale, mandaci Mauro da Mantova e vediamo come va. Un abbraccio dalla Francia, ciao ciao caro. Ti hanno pestato, Cruciani? Ah, come godo, ti hanno pestato. Spero che ti abbiano gonfiato. Cruciani, con gli animalisti ti sei cagato sotto, ti sei cagato sotto. Siamo al top. Cruciani, ti prego, mi togli una curiosità. Perché cazzo avevi un salame nello studio? Ma come l'eroico Cruciani che scappa dietro a quattro femminucce che lo inseguono? Cruciani, impara da noi siciliani. Culampian prima, avevi sempre ragione, ricordatelo, ciao. Cattivello Cruciani, rischi brutto e te le meriti tutte. Cruciani, non ho mai sentito parlare così tanto di te come questa roba degli animalisti. Secondo me ti conveniva pigliare anche due schiaffi, che secondo me facevi il botto con due schiaffi in più. E via Parenzo, Marco da Bergamo. Io sono innamorato di quella voce lì. No, eh? attenzione. Io sono puntata di oggi che dedicata ad Andro Mercù, che ha aperto la porta ai manifestanti pacifisti. mortacci sua. Marco da Bergamo, dai. Apre le porte. Mercù apre le porte come il Papa che alza le mani. Lasciate che i bambini vengano a me. Andrò Mercù, dovevi aprirla tutta quella porta. Tutta! Apri la porta, Mercù, apri la porta. Apri la porta. Una giusta ne fai in 5 anni. Ma sempre a metà, cazzo. Mercù, tutta dovevi aprirla. Mercù, Mercù, Mercù, Mercù. Scusate, un momento di... Scusate. Ecco un altro coglione, un altro coglione come il suddetto. Un altro coglione come il suddetto. Mi sono fatto dall'emozione, perché Mercù l'ha fatto in buona fede. Un altro coglione, Parenzo, un altro coglione come il suddetto, Lali. Mercù, quello che Mercù. Non voglio manco pronunciare. Marco da Bergamo, vai. No, Marco Mercù, ah no, Marco, Andro Mercù. Vai Marco, dimmi. Ciao Cruciani, ciao Parenzo. Vai. Ascolta, ti volevo dire che secondo me gli amici del fronte animalista hanno fatto bene a manifestare sotto la manifestare sotto chiunque, chiunque può manifestare, Sì, sì. Allora? Ma infatti non hanno fatto niente di male, ok. Non hanno fatto niente di male, lo dici tu questo qua, lo dici tu. Cosa ti hanno fatto male? Non ti hanno fatto niente. Perché non mi hanno preso? Perché non mi hanno preso? Non ti avrebbero fatto adesso comunque. Un altro fenomeno di quelli che dicono bah sì dai eccetera, quando voglio ricordare il professor, non è che mi sto paragonando perché sono due cose completamente diverse, non sto dando come dire patenti o pagelle, quando il professor Panebianco è stato azzittito, e dico azzittito, non aggredito, azzittito, non rincorso, azzittito all'Università di Bologna. Tutti gli intellettuali italiani che adesso dicono sì, sono quattro poveracci, hanno detto bah, una cosa gravissima, eccetera. Adesso arriva Marco da Bergamo e altri a dire vabbè, ma non ti hanno fatto niente, eccetera. Ma voi eravate qua, sai qualcosa? Che cazzo ne sai tu, Marco? Cosa ne sai? Quelli sta zitto. Del fronte animalista sono miei amici, ok? Pure, comunque, sono amici tuoi, ma sono quattro imbecilli. Certo, vabbè, magari io posso non condividere, diciamo... al 100% le parolacce o cosa che magari che c'entrano le parolacce? No, ma perché dove? Gli insulti sono una forma di violenza. Ma okay? Cosa c'entra gli insulti? Ma cosa c'entra? Non c'entra assolutamente nulla. Scusa, sono non due... ti hanno insultato, ma... porco cane. Sì, ma mi volevano picchiare, è diversa la cosa. Ma chi se ne frega? Ma non voglio dare nemmeno troppa enfasi a questa cosa. Comunque, a prescindere da quello, ok? C'è gente, ok, che ad esempio io questo lo conosco, per questo quanto mi riguarda, se vedessi un macellaio che sta per sgozzare un capretto o qualcosa del genere, vado lì e faccio ovviamente non è che uccido il macellaio, ok, perlomeno cerco di disarmarlo o fare a meno che questo uccida questo agnello. Ma non sta commettendo un reato quel macellaio, questa è la piccola differenza. Sì, ma ho capito, cioè se lei ha il dovere di intervenire qualora si manifesti dinanzi a lei un reato. Sì, ma no? Ho capito, ma quello fa il suo lavoro, che è quello di fare il macellaio. Uno schiavo, anche quando c'erano gli schiavi neri, frustrare uno schiavo non era un reato. È un ma non diciamo, questo è l'argomento più è l'argomento all'etica, nel senso l'etica che intendo io è semplicemente il rispetto del dolore, ok? Come benissimo, rispettiamo il dolore, però se mangiamo gli animali. Benissimo, ma noi tranquillamente, noi rispettiamo il dolore, non sono ipocrita. Tu te ne fotti del dolore, non lo rispetti, capisci? Io lo rispetto, però alla fine, se mangiamo lo stesso il salame, ci mangiamo gli animali lo stesso, siamo consapevoli, verrà veramente un giorno in cui sarà vietato. Sì, perché benissimo, battetevi per questo, non ho problemi. Guarda solamente in Sud America, nell'Amazzonia, nelle riserve dove ci sono i bracconieri, lo sai cosa succede lì? Ci sono persone armate che difendono i giaguari. Se tu lì vai per cacciare un giaguaro, sei morto. Ma che c'entra? Tua vista, e allora? Per farti vedere in quel caso. Ma che c'entra? Ma che perché quelli, animali, perché quelli per farti, per farti ma perché quelli si estinguono? Perché quelli si estinguono, okay? Ma per farti vedere che in quel caso una vita umana vale meno di quella di un animale, capisci? Ma che e questo sì. Dimostra che quando tu dici che una vita di un animale è sempre inferiore a quella di un uomo, non ho mai detto una cosa del genere. È una grande puttanata, capisci? Non puoi dire sempre. Ciao amico volte. Mio, ciao, ti abbandono, ciao. Oggi più che mai. Mangio un filetto, vedo le stelle, baby. Radio Voodoo. E mi godo così le corde più belle con te. La moda, eccola qua. Questo non mi va. Io non sono vegano. Mi piace il manzo italiano. Tutta la vita. Allora ragazzi, c'è un signore di Casa Pound che si chiama Di Stefano, Simone, sì, Di Stefano, come? Caro Parenzo, come? Che è uno dei capi di Casa Pound, che mi dice devi menare, dai giudici e dai pacifisti non otterrai mai niente, se ti picchiano, se ma ti aggrediscono, questo, devi menare. Ma è questo un suggerimento detto da... devi... No, ma è alla stessa una stregua. Una tradizione politica, no, diciamo, almeno lui, nota quella. Almeno lui lo dice apertamente però, almeno lui lo dice apertamente, non tutti quelli... c'è un lunghissimo elenco, guarda, di nomi i quali dicono beh sei scappato di fronte alle tue provocazioni. Almeno lui lo dice apertamente. Siete come Di Stefano, tutti quelli che hanno scritto sei un coniglio, sei scappato, siete come Di Stefano. Casa Pound, siete come lui, compreso quell'altro, l'innominabile, quell'altro che ho citato prima, quello che non voglio nemmeno ripetere il nome, che non me ne frega nulla. Sei come Di Stefano, Casa Pound, chiaro. E sono sicuro che lui si vergogna. Beh sì. Michelangelo da Milano, vai. Michelangelo, vai. Michelangelo. Armando, Roma. Pronto? Dimmi, dimmi. Allora, ciao, senti, io sono un amico tuo su Facebook e sono anche amico di Pigi Battista. E chi è? Ah, Pigi Battista, quello del Corriere della Sera. Stamattina sì. Il vice direttore sì. Ha fatto un piccolo. So se è vice direttore, dicendo... comunque è un sì, bravissimo giornalista del Corriere della Sera che stimo moltissimo, peraltro. Bravo, e ti ha scritto due cose: ha detto da carnivoro a carnivoro, sì. Crucià, magna e non rompe, non rompe i coglioni. In sì. Sostanza, ti ha detto, sì. Se vai a vedere, penso che è anche amico tuo su Facebook, no? Sì. Lo vai a trovare. Ma io rispetto, ripeto, non sono d'accordo, ma rispetto quello che dice. Chi se ne frega di quello che dice Pierluigi Battista? Cioè, non me ne fotto totalmente. Non è l'innominabile Battista, quindi anch'io con l'innominabile avrei qualche problema. Però insomma, anche io la penso un pochino come Battista. La stai portando un po' le lunghe, dai, adesso è finita Pasqua. Senti, andiamo. Armando, io parlo di quello che mi pare. Se non ti piace l'argomento di cui parliamo, cambia radio, non ci rompere i coglioni, però, carità, amico mio. Allora, punto e basta. Cioè, a me non me ne frega niente di quello che dice Pierluigi Battista, che non sa che cos'è la radio, non sa di che si sta parlando, non sa nulla di nulla e dice lascia perdere, sono quattro, non paragonare cose, cioè non sa niente, parla perché parla, giustamente parla, fa benissimo, però non sa un cazzo di quello che è successo. Va punto bene, e basta. Okay, Fabio, grazie. Da Torino, vai Fabio. Pronto, ciao Giuseppe, sono Fabio da Torino e ti sostengo al 100%. Sono un malato di sclerosi multipla e sono contento che i farmaci che prendo li abbiano prima testati sugli animali. Bravo, bravo. E poi tra l'altro... Ascolta, quello che va, deficiente, prima... ascolta questo qua, deficiente che hai già scritto su Twitter, vai, ascolta questo qua, deficiente, vai Fabio, dimmi. No, quello che ti ha chiamato prima, che è amico degli animalisti, secondo me è lo stesso con cui hai litigato venerdì, perché diceva sempre ok, quindi sono sempre quelli e pensano di poter avere la ragione dalla parte loro. Tra l'altro ci sono degli studi che indicano come le piante non è vero che non abbiano assolutamente sistema nervoso, quindi loro sono ancora peggio, perché si nutrono di vegetali perché non si possono lamentare. Ma cioè, è una roba vergognosa, guarda, comunque ti sostengo Giuseppe, non mollare. Ciao, Michelangelo da Milano c'è alla fine, Michelangelo ci sei? Ci sono. Vai, dimmi, dai. Allora, per me, allora, pacatamente, sì. Secondo me, quando hai invitato l'agnello, sì. E il macellaio, hai creato l'effetto boomerang. Cioè? Ci saranno molti più vegani adesso. Benissimo, che me ne frega? No, aspetta un attimo, aspetta. Infatti, no, ma questo che me ne frega, va bene. Però se tu combatti una battaglia, non devi farlo in questo modo. Io, dal mio microcosmo... Ma tu hai tutte... Perché secondo me, no, scusa, poi ti lascio. Uno come Parenzo... inorridito di fronte a quella e non no, veramente non l'ho inorridito per niente. No, ho detto che io non lo mangerei quell'agnello, cioè che è ovvio, esatto, che appartengo agli ipocriti, cioè a quelli che non assisterebbe mai a una macellazione, esatto. E poi non sarebbe, lo dico io, ma qual è l'effetto contrario? Ho saputo, scusa Michelangelo, devo andare in pubblicità, scusami un attimo. Allora, la cosa è molto semplice, qualcuno mi ha detto ecco c'è una statistica per cui sono stati ammazzati meno agnelli e si è consumato meno agnelli durante questa Pasqua. Benissimo, a me non me ne frega assolutamente, ognuno è libero di fare quello quello che vuole. Se la gente arriverà a non mangiare più l'agnello, ma io me ne frego, va benissimo, sarà una libera scelta, una scelta fatta con consapevolezza, leggendo, non leggendo, perché l'agnello non va più bene, perché è più cattivo, non lo so, me ne frego, io sono per la libertà, chiaro, deficiente? Giù le mani da Cruciani. La Zanzara. Perché tutti i musulmani silenzio! Sono terroristi? Avvocato! Allora, tutti gli uomini che ammazzano le loro mogli in casa sono tutti terroristi! Avvocato, mi stai sentendo? No! Dimmi ma di che sì. Cavolo dice? Ma no, che dice? No, che cavolo dice lei? Si faccia un po' stuprare, tanto per fare integrazione. Dai mariti a casa, sì! Fatti un po' stuprare dai mariti, stuprare, dai compagni, dai fidanzati. Dall'Isis, leggo ogni tanto quello che succede nel nostro paese, che si documenti un po' meglio. Bene. E non sono musulmani. Ti fa bene per capire. Avvocato, però... Ti fa bene per capire. Però, avvocato... Non metti le corna a tuo marito. Silenzio, avvocato. Allora, le due frasi del Tao, le due frasi dell'avvocato sono: dai, si faccia stuprare, si faccia stuprare, detto a una deputata del Partito Democratico, metti le corna e fatti la, metti la corna a tuo marito e fatti lapidare. Messo al di là di a chi l'ha detto, che non è perché il fatto che l'ha detto no, una deputata no, del PD diventa deputato, più grave, no, me ne frega no, niente no, di è questa uguale, cosa, uguale. Cosa vomitevole. Ma lui diciamo che ha detto che voleva fare no, ma una... dai, è vomitevole, ma non è neanche una battuta sessista, non è adesso, una battuta. Adesso tra poco secondo me potremmo anche chiamarlo al volo. È vomitevole, eh. Vomitevole. Marco da Lodi, 800240024, Marco vai. Sì, abbiamo lasciato per un attimo accanto gli animali, invece abbiamo sentito un linguaggio animalesco, perché non è possibile che nessun intellettuale abbia visto Iceberg. Tu, Roberto da Massa, vai. Sì. Io sono solidale con te. La prossima volta che tentano di copicchiarti, vengo io a fiamme a dare fuoco a questi quattro deficienti. Ma no, ma non bisogna dare fuoco a nessuno, questo è il punto, capito? Non bisogna mettere le mani addosso a nessuno, perché sennò si arriva a pensarla come si arriva a pensarla come il deficiente abbronzato per finta, il quale dice che uno deve rispondere. Capito? Che io sarei stato impavido, capito? Deve rispondere con la violenza alla violenza, capito? Non sa nemmeno che è violenza. Ho capito, ma questa gente qui non c'è nulla da fare dalla mattina alla sera, allora alle galline, i conigli, cioè voglio dire, io l'agnello lo mangio e mi piace tanto anche. Ma sì, ma basta solo questo, non ci rompete i coglioni con tutto il resto, dai. Vabbè, Giuseppe, provincia di Chieti, vai. Dimmi, Roberto. Ti ammiro comunque. Ciao, Giuseppe, provincia tanto, di Chieti, ciao. Vai. Pronto? Dimmi. Oh, e la mia solidarietà, Cruciani. Ah, questo è il cretino di Chieti, vai. Ma guardi, cominciamo bene, come al solito. Sì, dimmi. Io sarei partito in sua difesa. Sì. Io da giovane ero cintura nera di karate. Sì, e allora? Quindi gli davamo una bella lezioncina, sti quattro merdosi. Tu sei abituato a fare così, io no. Ma scusa, se uno ti attacca, tu che fai? Ti fai menare? Sì, non hai capito ancora, cioè io non reagisco alle persone che vogliono aggredire con l'aggressione, capito? Poi voglio spiegare a questi merdosi che mio padre, la buonanima, e noi tre figli, no? 20 ettari di terreno qui in Abruzzo, ammazzavamo il maiale, io mantenevo la coda, no? Mi ricordo da bambino. In che senso, la tenevi? Sì. Tenevi ferma la coda? Sì, la coda, perché gli altri quattro, le altre quattro persone mantenevano il maiale e mio padre lo scannava e con il sangue ci facevamo il sanguinaccio, lo mangiavamo qualche volta. No? E allora? No, per dire che ammazzare un maiale o un agnello che c'è, oppure un coniglio, oppure i polli e le galline che io li mantenevo per le ali e i piedi, mi ricordo quando avevo 12-13 anni, perché dovevo metterlo al congelatore, c'avevamo la campagna. Vabbè, allora questo racconto per dire cosa, non ho capito. Della nostra tradizione cristiana. Cosa c'entra? Vabbè, ma allora che c'entra? Penso che chi sarà con i polli messi in freezer. No, per dire a questi merdosi che lei non si deve far mettere sotto da gente che non c'ha niente da fare tutta la giornata e viene a rompere i coglioni là via Monterosa. Okay. Vabbè, che devi. E poi un'altra cosa, Crucia, mo parte l'attacco. Allora, parte, lei che parte è uno sbatteggiatore, sentiamo, quando creperà fra 100 anni, io già me lo immagino, sua figlia e le amanti che vanno dal parroco. Dal parroco. Per portare Dottorino Cruciani in chiesa e il parroco, mentre sale le scale la bara, lo ribalta giù per le scale. Ma non ho capito di che sta ma parlando. Ma quando sogna ste robe? No, del tuo funerale sta parlando sto qua. Sì, ho capito, ho capito. Vabbè, prima o poi tutti, prima poi tutti devono morire, Giuseppe. Ho detto fra 100 anni, Cruciani. Che nonostante sta bara, non si è capito però poi come va a finire. Allora, non ho capito, tutti devono morire, anche tu morirai probabilmente prima di me, Ma diciamo dipende. Sono quasi certo che tu morirai prima di me, Giuseppe. No, io ho qualche annetto più di lei, però non sono quasi certo che creperai prima di me. Questo è da vedere. Mia nonna ha campato fino a 101 anno e 6 mesi. Ma sono quasi certo che crepi prima di me. Guarda, sono ma quasi non penso, Cruciale. Sì, sì, penso proprio di sì. Vabbè, ma all'ipertensione, tutte le pasticche, le cose che prende per... Ma io non prendo nessuna pasticca, ti posso assicurare. Ma, non ho mai preso pasticche, vita mia. A Cruciani, ma non fare... Ma non ho mai preso pasticche, vita mia, ti giuro. Mai preso pasticche. Vabbè, Giuseppe, comunque, non c'è un cazzo da dire. Ciao, ciao. Comunque... Ciao, ciao, ciao, ciao. Fortunato Bergamo, vai! Eccomi. Dimmi. Allora, piena solidarietà innanzitutto. Vabbè ragazzi, però mi sono rotti i coglioni della solidarietà, vai. No, vabbè. Io sono quello che ti deve dare la targa da parte dei cacciatori lombardi. Ah, bene, bene. Ottimo. Ottimo. Allora, pare che mi vogliano fare, qualcuno propone di farmi presidente ad honorem dei cacciatori italiani, sarei molto orgoglioso, ma insomma anche se non succede. Io sono arrivato per primo circa un mese e mezzo fa, se ti ricordi, volevo darti la targa, hai detto che saresti venuto a Bergamo a ritirarla. Se non puoi venire veniamo noi in studio. Vabbè, allora e non veniamo sicuramente con i lacrimogeni, non veniamo né con i lacrimogeni. Organizzagli una bella grigliata di carne poi dopo la, quando gli dai fai una cena. Vabbè, fortunato, allora? Allora volevo dire che questi sedicenti animalisti si divertono a venire a provocare regolarmente durante le manifestazioni fieristiche e dove ci sono le manifestazioni con il canto degli uccelli canterini senza autorizzazione. Sì, ma la provocazione, Fortunato, va benissimo. Cioè, finché uno provoca e fa le sia non violenta. Vabbè, ma quello è chiaro. Cioè, ma quello è scontato. No, ma non è così. Loro vengono... Aspetta un attimo, fermo. Vodafone. Allora, che dicevi, Fortunato? Marco, provincia di Milano, vai. Ciao ragazzi. Dimmi. Ciao, volevo dire che, come stava dicendo l'ascoltatore precedente, questi quattro coglioni effettivamente vengono sempre a disturbare tutte le manifestazioni dei paesini. Io parlo del mio che è in Sago, provincia di Milano, della Fiera del Bestiame. Ogni anno, tra l'altro è uno di quelli che ho visto anche nelle immagini che è venuto sotto da voi, sempre gli stessi quattro sfigati che vengono, che rompono le scatole anche ai bambini che vanno sui pony, vengono a rompere le scatole. No, i bambini devono andare sui pony, come non possono andare sui pony? Eh no, ma questi rompono perché addirittura... Sì, questo qua, il capo di questi qua, è un tizio che si chiama Roberto Serafin di Seveso. Ecco lui, quel coglionazzo. Il quale addirittura apparteneva al gruppo 100% animalisti, poi l'hanno cacciato da là o si è separato dall'altro pazzo invasato di Mocavero, che spesso è stato ospite nostro. Vabbè, ma insomma, minoranze, però pericolose, però pericolose, pericolose. Addirittura, giusto farvi capire, c'era una ragazza che andava a cavallo, gli urlavano indietro, poi te lo mangerai, poi te lo mangerai. Ma no, coglioni. Anzi, chi va a cavallo non lo mangia mai in genere, anzi, tutt'altro, e grande rispetto. Ma per cavallo. Dire che sono quattro coglioni, giusto per mettere i punti. Sì, sono dire, coglioni, ma sono pericolosi. Coglioni perché, prova a dire a un senese che si mangia il cavallo, giustamente ti sputa in faccia, perché anzi il senese ha grande rispetto del cavallo. Tutta la tosse non si mangia nessun cavallo. Va bene Marco, ciao, noi, ciao. L'ultima cosa, sì, l'ultima cosa. Volevo dire, poi noi chiaramente l'abbiamo sempre respinti pacificamente, cioè nel senso, abbiamo fatto un muro per non farli accedere, diciamo, al capannone, diciamo, dove c'è la manifestazione. Abbiamo sempre allontanati tranquillamente, infatti sempre con le cose fra le gambe. Va bene, ciao, ciao Marco, ciao, ciao. Francesco, Milano, vai! Sì, pronto! Dimmi! Una cosa in merito a quello che ha detto l'avvocato professor Taormina, o almeno a quella cosa che hai fatto sentire. Sono abbastanza stufo di sentire in trasmissione che a giustificazione del trattamento assurdo che hanno le donne nell'Islam si usino le azioni di delinquenti, pazzi, criminali che ammazzano o che violentano le mogli, le compagne e così via. Non c'entra niente. Il nostro Stato considera le donne pariteticamente agli uomini. No, ma infatti fino a quel momento lì il ragionamento di Taormina era quasi corretto, cioè secondo me il paragone che faceva tra le donne trattate in Italia e le donne trattate nell'Islam della deputata del PD era una follia totale, cioè non si possono paragonare le due cose, sono cose completamente diverse. No, lei giustamente diceva che la violenza sulle donne esiste anche nel nostro paese, dove non c'è ma la è diverso sharia. Lì è istituzionale, cioè, la sottomissione delle donne, cioè, è istituzionale, è chiaro, ma non è che ci sono contesti lì, è per lì legge. Ha detto una stupidaggine lì, la signora PD, dopodiché non giustificava la reazione di Taormina, su questo non c'è dubbio. Comunque gli episodi di violenza contro le donne avvengono anche nelle famiglie tradizionali, cattoliche, apostoliche, romane. Ma non c'entra romane. Niente, dai, aspetta. Pronto? I've been driving all night, my hands wet on the wheel. Francesco Frosinone, vai. Buonasera. Allora, dimmi. Io volevo semplicemente fare un intervento, forse aprire una discussione. Io condivido in pieno, sposo in pieno. L'animalista, la categoria degli animalisti è una categoria di depressi. Togliere, eliminare l'animale significa eliminare la causa del loro benessere psicologico. Questo è quello che io penso. Che vuol dire? Non ho capito. Vuol dire che se, guardi, io ho esperienze in maneggi e roba, io addirittura quando si vedono persone che parlano agli animali, questa è una cosa che proprio è inaccettabile. Vabbè, ma ognuno può, si può illudere come vuole, basta che non rompe i coglioni agli altri. Cioè. Esattamente, questo è il punto. Cioè, esiste l'ippoterapia, secondo il mio punto di vista, esiste anche l'agnelloterapia. Aspetta un attimo, aspetta. Avvocato, ecco. Professore. Chi è? Sono Cruciani, ciao. Ciao, come stai? Ciao, bene, non c'è male. Ma che cazzo hai combinato l'altro giorno con quella del PD? Per che cosa? Ma hai detto delle cose tremende. Lo stupro. Vabbè. Sono affermazioni che vanno capite. Beh, ma gli hai detto fatti stuprare. Ma che dici? No, non ho detto questo. Ho detto che... Spiegati che è importante che ti stanno trattando come un criminale. Spiegati. Ma non mi importa che mi trattino come criminale, non capiscono invece che è assolutamente il contrario. Allora, il contesto era questo, era il giorno dopo il Belgio lei ha cominciato a parlare ampiamente di integrazione. No, non era il giorno dopo il Belgio, era venerdì, per cui è qualche giorno dopo. Comunque, vabbè, allora... Vabbè, insomma, il giorno dopo nel senso... Sì, però giorni... c'erano state delle notizie importanti, vabbè, allora... gli arresti, queste cose qua. E quindi lei naturalmente stava facendo... grande proclamazione di necessità di integrazione, che bisogna capire le persone, le cose, le situazioni, eccetera. e io non ci ho visto più, e quindi ho detto, ma dico, quale integrazione? Questi sono una massa di delinquenti, uno appresso all'altro. Sì. Ho detto quello che ho, sì, ma che pensato. C'entra lo stupro? Gli hai detto fatti stuprare da questi, detto, no. Su, no, perché è partita la frizione, Carlè, Namo. Mi vuoi far parlare? O... Fallo parlare, Davide. Ma sì, per carità, va bene, ma l'abbiamo sentito l'audio, dai. Ma chi è? Parenzo, Parenzo. Ti meravigli. No, perché lei a un certo punto, ma la deputata, cosa? Aspetta, avvocato, professore, la deputata del PD ha detto una cosa, no, a un certo punto. Ha detto "No, vabbè, ma le violenze ci sono anche da noi in Italia sulle donne, no? Una cosa del genere". Ha paragonato la condizione della donna nell'Islam alla condizione della donna in Italia in alcuni contesti, giusto? Sì, ma io le ho detto semplicemente, ho voluto soltanto dire questo. Si faccia stuprare, gli ha detto. Tanto è impossibile. Tanto è impossibile l'integrazione, questa è la mia opinione, che va rispettata come quella degli altri, tanto è impossibile l'integrazione che se tutti facessi stuprare siamo di fronte ad un'altra impossibilità. Per quanto è impossibile che tu ti faccia stuprare, così è impossibile l'integrazione. No, ma non hai detto questo, ma abbiamo sentito. Ah, professore, hai detto si faccia stuprare. Metti le corna e fatti lapidare, dai. Ho detto, no, scusami, se lei ama l'integrazione, si faccia stuprare. E vabbè, ma appunto. Volevo dire questo che sto dicendo, e cioè che tanto è inconcepibile che lei si facesse stuprare quanto è inconcepibile l'integrazione. Ma non è questo, non tu hai detto si faccia stuprare, no, nel senso questo. Hai detto metti le corna e fatti lapidare, metti le corna e fatti pentiti, chiedi scusa. Ma io non ho da chiedere. Hai detto scusa. Una donna si a faccia stuprare. Chiedere scusa, no, quella sei incazzata, giustamente. Ma lo vogliamo risentiamo un attimo il tavolo, scusa. Aspetta un attimo, professore, che risentiamo tutto, così è chiaro, non è che ci può venire a piappare il culo a noi, aspetta. Perché tutti i musulmani Silenzio! Sono terroristi? Avvocato! Allora, tutti gli uomini che ammazzano le loro mi mogli sentendo? In casa sono tutti terroristi. Avvocato, mi stai sentendo? No. Dimmi ma di che sì. Cavolo dice? Ma no, che dice? No, che cavolo dice lei? Si faccia un po' stuprare, tanto per fare integrazione. Dai mariti a casa, sì. Fatti un po' stuprare dai mariti, stuprare, dai compagni, dai fidanzati. Leggo ogni tanto quello che succede nel nostro paese, che si documenti fa bene, un po' meglio. Fa bene. E non sono musulmani. Ti fa bene per capire. Avvocato, però... Ti fa bene per capire. Però, avvocato... metti le corna a tuo marito. Silenzio, avvocato. Beh, mi pare chiaro, professore. Non mi pare chiaro. Fatti stuprare che ti fa bene. La sentenza è definitiva, inequivocabile. Mi pare chiarissimo. Il concetto è esattamente questo. Deve chiedere scusa, inequivocabile. No, io chiedi scusa, professore. Io sono la Cassazione in questo caso, inequivocabile. È la Cassazione, ha detto. Io sono la Cassazione, giudizio definitivo, è stato condannato. Non sono assolutamente d'accordo. Non so assolutamente d'accordo. Ma dai, vergognati e basta, dai, no, su, professore. No, vergognatevi voi che state cercando di cincischiare. Ma hai detto vatti a fare stuprare, no, metti le corna a tuo marito e fatti lapidare, vergognati. Scusami, mi sta contattando la signora Diana che vorrebbe intervenire, dice che sta provando a chiamare. Chi è la signora Diana? È la protagonista del... Esattamente per dire quello che ho più volte è la protagonista dello scontro. Ma non si è capito quello che volevi cellulare. Dire. Hai detto semplicemente per provocare, secondo me dovresti ammetterlo. Per provocare, hai detto siccome stuprano nell'ISIS. Certo che è una provocazione. Ho capito, ma hai detto si faccia stuprare dall'ISIS così ti fa bene. Come lei provocava dicendo che bisognava abbracciare la logica dell'integrazione, io ho detto allora. Fatti stuprare. Stuprare così lei sarà integrata. Ma che cazzo c'entra? Ma che vuol dire? Ma scusa, ma se non capisci che ti posso fare? Metti le corna e fatti lapidare. Io su questo sono la Cassazione. Però giudizio definitivo. Però aspetta. Io devo dare ragione su una cosa. C'è la Diana che mi sta chiamando. Ma chi è? Chiamatela, Diana De Marchi. Mi sta chiamando, vuole intervenire, ma trova sempre occupato. Falla mettere in contatto con l'avvocato. È una grande assurdità. Per dire che assurda è l'integrazione. Punto. Basta, non ho altro da dire. Ma che c'entra assurda l'integrazione? Tu hai detto che è assurda l'integrazione, dai. D'accordo. Puoi anche dire nell'Islam le donne, nell'ISIS le donne le stuprano. Nell'ISIS se metti le corna a qualcuno. E allora se tu pensi che vadano bene le cose, che quella sia un'integrazione possibile, fatti stuprare e vediamo se ti va bene come integrazione. Ma che vuol dire? Ma che c'entra? Dai. Adesso aspetta, che ha chiamato quella là, devi chiedere scusa alla signora. No, quella là, l'onorevole De Marchi ha chiamato. L'onorevole De Marchi, chiedi scusa. Chiedi scusa. Innanzitutto non è un onorevole De Marchi, ma è un De Marchi qualsiasi, come sono un qualsiasi. Vabbè, ma che c'entra? Deputato, ci siamo confrontati su un tema politico. politico. Ma che te l'hai detto? Fate stupraia, ma che tema detto? Politico? Fatto di affermazioni fortissime da parte sua. Ma ce l'avete il numero? Ve lo do io. Ma scusa, fortissime. Quella può avere, detto, no? Può avere detto delle cose sbagliate. Ma tu gli hai detto fate stupraia, metti la corna a tuo marito così ti fai lapidare. Non hai capito. Vabbè, ma sa... Continui a non capire. Ma io posso darti anche ragione se tu ammetti però di avere... Io posso darti anche ragione. Hai detto l'ISIS fanno queste cose qui. Vergognati di dire che ci possiamo integrare. Ma nessuno si vuole integrare con l'ISIS però. Per te però lei in quel momento stava dicendo che per te l'Islam devi dire la verità, allora per te l'Islam, per te l'Islam è violenza pura, tutto l'Islam. Allora, per me l'Islam è violenza potenziale che parte da una impostazione religiosa che io considero tale. E allora cacciamo tutti i musulmani? Secondo me sì. Cacciamo tutti i musulmani. Secondo me non debbono entrare, quelli che ci stanno se ne debbono andare. Tanto prima o poi, tanto oggi in Italia non succede niente. Perché? Semplicemente perché la vera rete di organizzazione e di reazione delle operazioni terroristiche, una è certamente l'Italia, e ve ne accorgerete fra qualche allora anno. Fermo, che però devi chiedere. Aspetta, Trump, l'onorevole, com'è che si chiama? De Marchi? Diana De Marchi. De Marchi pretende, credo, le scuse, pretende le scuse da Taormina. Fermo, Tao, professore, aspetta che devi chiedere scusa, se te va, se no glielo ridici in faccia che deve farsi stuprare. Ciao, amici ascoltatori, chiamate Giuseppe Cruciani al 393-7171-701. Ciao, Giuseppe. La Zanzara. Mi raccomando, Giuseppe, resisti, che questi fascisti vegani e vegetariani hanno veramente rotto il cazzo. Per la libertà di informazione sei il nostro vessillo, la nostra avanguardia. Beh, adesso la libertà di informazione non c'entra niente in questo caso. Nulla, nulla. Libertà di cibo, diciamo, libertà di stomaco, si potrebbe dire, no? Io qui davanti ho un salame, caro Parenzo, un salame un altro. Esposto. Beh, ma sì. Quanti cazzi di salami me ne aveva il mitico. Ma anche questo non è normale avere dei salami. Ma no, ma allora spieghiamola come nasce la cosa del salame. Perché avevo un salame in mano? Non è che me lo porto da casa, appunto, il salame. Strano, qualcuno di dice questo, tutto sennò... preparato perché avevi il salame. Non capiscono un cazzo. Allora, due giorni prima era venuto quel signore con l'agnellino che abbiamo battezzato Zanzarina. A proposito, che me l'ha salvato quell'agnello. A proposito, allora, mia figlia Viola. Ha visto le immagini, ovviamente è una bambina di 10 anni. Poverina. E ha detto: papà, ti prego, non fare uccidere Zanzarina. Non fare uccidere Zanzarina. E allora io sabato andrò con mia figlia in un posto segreto dove è Zanzarina. Non voglio dire nulla perché altrimenti questi pazzi vengono a rompere i coglioni. E anche lì salvata, bene. No, allora, siccome si sono avvicinati a Zanzarina, hanno chiamato il tizio Mapelli, là, Marco Mapelli, sì, grandissimo. 250 euro per comprarlo. No, siccome è stato avvicinato Mapelli da animalisti vari, ha chiamato Croce, quell'altro della AIDA, non so che associazione è, mezza finta, mezza vera, dice di avere migliaia di adesioni, non ci credo, e da altri che vogliono adottare Zanzarina. Amici bene. Miei, non è nella disposizione di nessuno, è di proprietà del signor Mapelli. Sì, ma si può salvare. Allora, ma non lo so se si può salvare o no. Mia figlia mi ha chiesto di salvarla. Vedi, ma è normale. Ho capito, ma è normale. Lei, a 10 anni è normale, no, che dica questa dico, cosa. Ma altri 10 anni. Allora la porterò. Adesso poi rifletto se salvarla per ma lei. Ma va salvata per lei. Per la... lei. Ma sì, non ma... per lei, perché quando uno lo conosce l'animale. No. Un momento. Ma è così. È un normale. Momento. Ha ragione tua figlia. È l'ipocrisia, perché io gli ho detto, siccome non sono ipocrito, spiegato a mia figlia di 10 anni questo, cara Viola. Per una che salviamo ce ne saranno altre migliaia che vengono uccise, per cui è assolutamente inutile salvare questa qua. Poi lo capisco che una bambina di 10 anni, come dire, no? Ma anch'io sono del primo. Prende in che simpatia. Vabbè, ma tu che c'entra? Tu fai parte dell'iperuranio. Ma cioè, l'iperuranio sono l'80% delle persone, però, che dicono mangiano carne. Ma tu, se ti vuoi emozionare di fronte a un agnellino, ma non è emozionare, pensi di è normalità. Vabbè. Perché io non me lo mangio, non sarei però, capace, ragazzi, di mangiarlo avendolo avuto in studio. Adesso non so dico la sorte di Zanzarina quale sarà. Intanto c'è l'onorevole De Marchi collegata e Carlo Taormina. Buonasera, signora De Marchi. Sera, non sono onorevole, sono Diana De Marchi, vabbè, uguale, responsabile cioè... diritti del PD, sì, certo. Io le chiedo scusa a nome della, anche se non c'è niente, a nome dell'avvocato, per la volgare, per la sì, certo. Ma che sei il portavoce della De Marchi? No, sei. Ma che non la conosco neanche, purtroppo. Allora, non però, mai Carlo, vuoi chiedere per scusa? La volgare aggressione. Carlo, vuoi chiedere scusa alla signora De Marchi? Ma guarda, non so innanzitutto se la signora De Marchi è o non è, perché con gli certo che fate voi non si capisce mai. No, è vera, ha chiamato io e credo che le scuse comunque non bastino. Poi lei ha già detto che non le vuole fare, quindi mi rendo conto che non ha capito che insulto ha fatto a tutte le donne, no, dicendo fatti stuprare alle donne che sono violentate come se cercassero la violenza. Cioè davvero è osceno, sessista, bene, razzista. Purtroppo ci ha fatto teniamo, un commento che è oltre qualunque tipo di teniamo, critica. Ci doniamo l'amore per l'integrazione, così siamo certo, io mi occupo di integrazione da sempre, faccio l'insegnante, lavoro per questo e penso che questo sia l'unico modo di affrontare quello che sta succedendo. Allora, guardi, sono stati in trasmissione tante volte, sempre che lei sia De Marchi, non so se... De Marchi! Lei mi ha detto, non vai a farti stuprare, fatti ingravidare dai tuoi amici musulmani. Questo è quello che lei ha detto a me in trasmissione. Purtroppo lei non e credo che sia davvero una vergogna per tutti. Lei non ha grande capito vergogna. Come non capiscono gli altri. Perché le parole sono pietre, diceva qualcuno. Ma le parole vanno esaminate nel loro complesso. Le parole vanno usate nel modo corretto, con rispetto, sempre. È quella e vuole significare assurdità. Niente, cazzate, vuole cazzate, vuole basta. Propagare una cultura dell'odio, della paura. Questo vuole fare. Ma che c'entra la cultura dell'odio? Scusi un attimo, signor De Marchi, è normale anche contestare il paragone che lei ha fatto tra la violenza sulle donne in Italia e la violenza delle donne in Libia? Quel paragone io non l'ho fatto inizialmente. Io inizialmente ho detto, siccome Taormina spiegava che tutti i musulmani sono terroristi, che io che mi occupo di integrazione fomento il terrorismo e che i fatti di Bruxelles e Parigi avvengono perché ci sono persone che come me sono tante lavorano per l'integrazione. Hai detto che tutti i musulmani sono terroristi? Che io distingo. Sì, ha detto che tutti i musulmani o sono terroristi o sono violenti con le donne. E intanto insultava una donna verbalmente con violenza. Ma quando comincia, finisce più. Allora, io ho detto un'altra cosa. Io distingo i musulmani tra inaccettabili e terroristi. Quindi vuol dire che i 100.000 musulmani che vivono a Milano sono tutti da cacciare. Io dico che sono una parte inaccettabili e un'altra parte terroristi. Proprio per come trattano le donne, di cui lei oggi vuole essere vestillifera della libertà. Io sono una donna, avvocato Tarmino, volevo ricordarglielo. Proprio perché come trattano le donne. Scusate un attimo. Allora, io non discuto qui l'oggetto del contendere. Il problema è un altro, caro avvocato. Io amo anche la tua quando provochi, per carità, va bene tutto. Sono il primo a considerare l'Islam in quanto Islam un pericolo. Sono il primo. Ma cosa vuoi in quanto lascia Islam? Perdere, ma questo lo penso io. Ma che vuol dire in quanto Islam? Aspetta, fate la guerra allora. Allora lascia perdere. Questo è un mio pensiero legittimo, come è legittimo il tuo pensiero e quello della dell'onorevole De Marchi. Davide, non è Vabbè, ma che vuol dire? In Italia ci sono 1 milione di musulmani, fate la guerra a 1 milione di persone, potenziali terroristi. Ma che dite? Ragazzi, ma non stiamo parlando di questo adesso, stiamo parlando di un'altra cosa. Dice che l'Islam... Io posso considerare l'Islam una cosa pericolosa, ma cosa significa dire si faccia stuprare o metti le corna e fatti lapidare? Allora, il punto è solo questo, non la discussione sull'Islam. Il fatto che Taormina ha rivolto a Diana De Marchi, ha detto si faccia stuprare, metti le corna e farti lapidare. Posso parlare? Dimmi, dai. Allora, chiedi scusa. Ma io posso chiedere anche scusa. Non lo vuoi chiedere, scusa. No, io l'ho già fatto. Quando l'hai fatto? Ma non quando è mai? Nessuna scusa, comunque. Scusa De Marchi, io te l'ho mandato. No, ma neanche così, io non sinceramente. Ma a me non me ne importa che tu non le prendi le scuse. No, a lei non gliene importa niente. Importa molte altre donne, per fortuna, che sono indignate. Io ho rappresentato le scuse, ho fatto 2 tweet e ho fatto un post. Ma sei mai detto prima che le scuse non le dai? I tweet siano delle scuse prima di tutto. Ma sei detto prima che non fai scusa? Io non ho detto questo, sto dicendo che io voglio spiegare le cose. La mia posizione è questa. Per me l'Islam è un potenziale pericolo e lo distingo tra inaccettabili perché le donne vengono trattate. Benissimo, sono d'accordo con te. Poi? Poi? Oh, ma non, ma vabbè, ma questo è un altro discorso, però vai, vai. Esatto, non c'entra niente. Che come è impossibile che la De Marchi potesse essere potesse ma non sai ne sei cercando addosso ma riuscito così è impossibile ma se gli hai detto chiara le hai detto chiaramente si faccia stuprare dai ma su questo, che ti fa bene hai aggiunto anche che ti fa bene hai detto che ti fa bene così capisci qualcosa di integrazione dai su Carlo volgarità oscena sessista divertendo. Ti è partita la frizione, dai, ti è partita la frizione, no, chiaro. Altro che querele, insomma. E poi, no, fate querele. Per tutte le donne, naturalmente. Oh, ma se vuole querelare, ti vuole querelare, ti vuole querelare. Certo, ma ci mancherebbe altro. Rispetto per le donne, scusa, credo certo. che sia la prima che cosa reato, che forse qua. Bisogna imparare, non solo tra i musulmani, per quelli che non le rispettano, ma anche tra molti italiani e Taormina in particolare. Vabbè. Ma scusate, ma perché non lo vedete come le come le trattano? Non lo vedete, no. Non lo vedete. Ma chi? Ma che vuol no, ma dire? Quello è un altro discorso. Come ha trattato mai in trasmissione. Ma questo è un altro discorso, Carlo. Carlo, è un altro discorso come trattano i musulmani. Ho capito che è un altro discorso, ma la radice è sempre la stessa. Ma hai detto metti le corna? No. Si faccia detto, stuprare che ti fa bene hai detto ti fa bene detto, perché dovrebbe faccia ingravidare faccia le corna insomma ma delle cose veramente inaccettabili ti è partita allora, la frizione vabbè dovete continuare Carlo dovete ho capito non vogliamo continuare hai detto delle cose di una gravità inaudita ma io ti sto dicendo il senso con il quale ma non c'è nessun senso non c'è senso lo vedo io il senso ma non lo vede nessuno il senso perché hai detto una volgarità una vuol dire che non siete capaci di vederlo ah noi tutto qua certo siete voi che non lo capite va io quello che penso l'ho detto e l'ho esternato dice una donna vada a farsi stuprare ed uno deve capire il senso avete finito va bene ciao Carlo ciao Carlo arrivederci sono De Marchi arrivederci. Ti hanno pestato, Cruciani? Ah, come godo, ti hanno pestato. Spero che vi abbiano gonfiato. La zanzara. Per la Yenlina zanzarina suggerirei un'asta tra vegani e carnivori. Io offro 300 euro per potermela mangiare insieme ad amici che porterò. Allora, Francesco da Foggia, vai Francesco, vai, vai, vai. Sì, come lotta ciao. Il professore comunque Parenzo come lotta il professore devo dire che io sono quasi sempre dalla sua parte però questa volta anche nel paradosso anche nella provocazione non riuscivo ma a non sostenerlo era neanche un paradosso no, dai, ma non era. No, allora uno può anche sostenere prova tu a capire come funziona nell'ISIS no? Cioè vai tu a fare la donna no, in mezzo allo Stato Islamico quello ci poteva stare già detta così è un'altra cosa ci poteva stare vai a fare la donna nello Stato Islamico e lui ha detto si faccia stuprare che ti fa bene non è più una provocazione no è una follia certo, dai su professore come fai a non capire questa cosa se uno dice sei donna vai a provare che cosa significa stare nello Stato Islamico e allora è una cosa vergognoso, ma non puoi dire dai, ti faccia stuprare metti le corna e fatti lapidare con tutto il bene che voglio al professor Taormina e alle sue provocazioni dai dove siamo Francesco Foggia sì stavo dicendo io premetto che non sono animalista però ho visto il video di questi 4, 5, 6 quanti erano che ti hanno minacciato e la buffonata l'hai fatta tu come al solito perché andare a provocare con un salame da dietro il vetro poi quando sono venuti sei scappato è quello che fai di solito cioè tu ti nascondi dietro la parola libertà ma la libertà di espressione non è solo dire le cose ma è anche prendersi le proprie responsabilità sì infatti c'è la legge su quello se io dico una stronzata se dico un'offesa se qualcuno si sente offeso se qualcuno si sente diffamato c'è la legge ci sono i tribunali uno fa una querela e va in tribunale da segnalare che finora di querele praticamente ne abbiamo avute tante ma ne abbiamo vinte quasi tutte chiaro Francesco se uno si sente diffamato se uno pensa che io uso certo. il microfono come una clava se io penso che se la gente pensa se qualcuno pensa di essere diffamato vada ai tribunali della Repubblica e mi porta in tribunale come è successo alcune volte cosa cazzo c'entra la reazione con la violenza me lo vuoi spiegare? Sì c'entra, perché se tu vai in una curva di una squadra avversaria, per esempio, appunto in una curva dagli ultra, certo, menano, vero, devi tenere le botte, devi stare anche zitto, non devi rompere il cazzo come fai tu che ti metti a senti Francesco mamma. Se sei, ma io non piango da nessuno, mi sono messo a ridere piangendo, sono tre giorni, quattro giorni che stai, veramente un giorno, perché è successo venerdì. E ti volevano menare, facevano bene se ti menavano. Vabbè, ma tu sei un altro coglione, per cui non c'è bisogno. Sei un altro imbecille, connivente con la violenza, connivente con la violenza, connivente con la violenza, connivente con la violenza. Vergognati. Non sono d'accordo. Vergognati. Non è che poi dopo, quando lo accusano, dice no, ma io non ho detto questo qua. Ma chi ha detto? Ma che cosa c'entra questo? Fai sempre così. Ma che cosa dici? Tiri la pietra e poi nascondi la mano. Ma cosa dici? Sei sempre così. Ma cosa dici? Cioè, nessuno deve menare nessuno. Esatto. Questo deve essere il principio dal quale partire. No, invece secondo lui sì. Ma si prende la responsabilità. Ma se qualcuno lo picchia, sono il primo a difenderlo per quello che dice. Ma stai scherzando? Francesco, ma dico, ma stiamo scherzando o no? Ma tu non puoi andare a minacciare. A provocare delle persone. Le provocazioni radiofoniche che ne dica il deficiente fanno parte della storia della radio. Ma di che state parlando? No, non sapete un cazzo. Io dico semplicemente che se un leghista ancora va davanti a una moschea con un maiale, ma io non sono andato davanti a nessuno. No, ma se uno va là davanti, sì, ma uno, cosa scende? Ma non sono andato davanti a nessuno. Sberla, certo, cioè, tutto, ma infatti non che la se io sia infatti giusta, se io andassi a un convegno di animalisti, se io andassi a un convegno di animalisti con il salame addosso. È chiaro che è sbagliato, ma un ciaffone purtroppo. Ma può io partire, non sono andato da nessuno, sono questi qua che sono venuti a rompere i coglioni. Sono venuti sotto. E allora basta. Palle, Marco, evidente, provincia di Mantova. Salutiamo l'altro, va Francesco, l'altro fenomeno. Va. Ciao Francesco, fenomeno. Ciao Marco, provincia di Mantova. Vai. Buonasera. Dimmi. Premesso che sono un po' emozionato per tanto. No, Marco, dai, non ti emozionare, su, vai. Ok, va bene. Allora, io volevo trasferirvi quello che mi ha detto mia figlia, che ha 11 anni, ieri, ascoltando la tua trasmissione. Sì, ieri quando, scusa? Ieri gli ho fatto sentire il podcast, perché noi ascoltiamo sempre il podcast, purtroppo, perché la bambina ovviamente a quest'ora fa altre cose, i compiti. In ogni caso, esatto, ti spiego quello che... cerco di dirvi quello che mi ha trasferito. Giusto, altro che quelli che dicono no, i bambini non possono ascoltare la zanzara, oddio, non possono ascoltare. Beh, sì, invece Marco, ascolta, Marco, invece Marco ascolta la zanzara, fa ascoltare alla figlia la zanzara, è normale, cosa normale. L'ascolta mia figlia e l'ascolta anche certo, mia moglie, poi ti sentono, mentre mia figlia ti appoggia, mia moglie dice che sei un provocatore. Ma che è scritto nel codice penale, i provocatori vanno condannati all'abitazione. Ma infatti nessuno ti condanna. Allora, lei ha un'opinione. Volevo solo fammi capire l'opinione di tua figlia di 11 anni. Vai. Mia figlia ha detto queste parole: anch'io mi sarei presentata giù con un salame, perché il salame è il frutto del maiale. Sì. Se lui fosse andato giù con un maiale, magari sculacciandolo, loro potevano avere qualche ragione in più per arrabbiarsi. Ma avendo portato a loro un salame come se fosse stato un dono, mi è sembrata una cosa giusta. Tanto che mi ha detto questo, è il frutto del maiale, cioè il frutto del maiale e fa parte della natura. Sì. Punto. Non voglio aggiungere altro perché mi sembra che questo... Ma guarda, devo dirti la verità, Marco. Ama gli animali. Marco, certo, amano gli animali, non c'è dubbio. Marco, ti dico una cosa, che peraltro io ho portato giù il salame, ma questi qua manco l'hanno visto, secondo me. Non l'hanno nemmeno visto, ti posso assicurare, erano già invasati. Appena hanno visto, eccetera. Appena Andro purtroppo ha aperto la porta, su questi si sono precipitati dentro, capito? Ciao, fermi tutti. Cruciani, non mollare! I nazi vegani non vinceranno mai! Traffico! Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta La Zanzara. Cruciani, queste ragazze che hanno cercato di aggredirti, queste animaliste fanatiche, impazzite, le devi anche un po' capire. Appena hanno visto il salame non hanno capito più niente. Caro Parenzo, ti voglio fare un regalo. Ti voglio fare. Questa è stupenda, eh. Ti voglio fare un regalo e mi dovrai ringraziare per questo. Sì. Adesso ti voglio presentare un personaggio, che è un personaggio meraviglioso. Per cambiare un po' argomento, perché altrimenti è anche il, come dire, il sesso time, no? Alle 20 e 21. Ecco, dico, ci sono tutti i dirigenti di Confindustria collegati nelle macchine. Appunto. E dunque dobbiamo dare anche sfogo alle loro, a quelle che sicuramente sono anche le loro tensioni, no? Le loro tensioni. Ma non me le immagino comunque. Allora, voglio presentarti un personaggio, perché sicuramente tu prima o poi avrai bisogno di rimettere a posto il tuo pisello. Cioè, di tornare indietro dalla circoncisione, per esempio. No, sarebbe bellissimo. Tutt'altro. Beh, sarebbe straordinario. Straordinario. E guarda che potrebbe fartelo, io ti consiglio fortemente. Ma io non voglio, anzi, sono fiero e orgoglioso di però, questo. Però potrebbe capitare. Ma dunque, a me non capita. Ti ma voglio fare, che ne sai, la vita è fatta anche di episodi, è fatta di cambiamenti. Ti posso assicurare che non mi può capitare. È fatta di grandi cambiamenti. Ti presento un personaggio che adesso noi scherziamo ovviamente, ma non troppo, sì. Ma è un grande professionista del settore. Praticamente si potrebbe definire un andrologo. Anzi, è sicuramente un andrologo, il quale è specializzato nel pene, in tutto quello che riguarda il pene, e ti può spiegare chiaramente che si può tornare indietro, e anche varie richieste si può tornare indietro dalla circoncisione. Dovrebbe ma parlare soprattutto, con Mauro Lamantova, che ha una testa di cazzo, ma soprattutto con lui potrebbe trovarsi, ma soprattutto diciamo. È di origine palestinese. E sarebbe, dico benissimo, io, benissimo. E sarebbe, dico quindi io, sarà circonciso pure lui, perché se non lo so, non lo so. Allora, il mitologico professor Jamal Salih, buonasera professore. Buonasera a lei, salve, buonasera. Come stai? Come salam stai? Aleikum, bene, professore. Salam aleikum. Ma che salam aleikum? Salam aleikum salam. Lo saluto. Allora, lo saluto, il professor Jamal Salih è un medico andrologo molto richiesto per tutti gli interventi che riguarda praticamente, professore, dica lei è uno specialista del cazzo, diciamo la verità. Beh, assolutamente. Così. Assolutamente. Assolutamente. Nato, pura verità. La pura verità. Nato a Gerico, sì, se bellissimo, non sbaglio. Conosco molto bene. Nato a Gerico, ma in realtà poi italiano, perché ha studiato a Messina. Assolutamente. A Messina, sì. E si è specializzato nel tempo nel pisello, c'è poco da fare. Ma è possibile tornare indietro dalla circoncisione? Concisione, professore? Beh, diciamo, in teoria è possibile, però è una richiesta veramente rara. Diciamo rara, ma poi oltretutto sicuramente non la fanno le persone che sono circoncise dalla nascita. Ah, ma lei ha avuto richieste? Qualcuno... Ha avuto richieste? Sì, ma comunque ripeto, sono veramente poche e rare. Ah, però ha avuto qualche richiesta? Sì, sì, sì, assolutamente. Di qualcuno. E come si fa? È tremendo, un intervento tremendo. Ma no, tecnicamente non è difficile, bisogna praticamente riportare in avanti una parte della cute che sta dietro. Capito Parenzo, e come e si fa? Bisogna aggiungere la cute? Diciamo un graft cosiddetto, cioè si prende dalla pelle da un'altra parte del corpo e si va a ricoprire il pene. Cioè il famoso ricappellamento, Parenzo, si può dire, no? Cioè in termini anche sì, un sì, po' no, più... Ma so diciamo, cosa dire, ma è una pratica non è assurda. Proprio possibile. Ah, completa perché non è possibile. La pelle del pene, il prepuzio, ha delle caratteristiche di mucosa sì. Che praticamente sì. Pochi tessuti del corpo hanno. Beh, certo. Dovrebbe andarla a prendere in certe parti che possono essere addirittura la mucosa buccale o comunque nella bocca zone... di una parte della bocca addirittura mamma mia ma allora diciamo chi lo fa chi è un matto totale, cioè, totale. Dici... No, generalmente si fa soltanto alle persone che sono state circoncise in età adulta sì. E eventualmente chi le ha operate ha tagliato veramente troppa pelle per cui rimane corpo un'operazione fatta male diciamo sì, maggiormente è questa allora ricerca. Però devi sapere Parenzo che al di là di questa cosa che è uno scherzo con te naturalmente sulla circoncisione, il professor Jamal Salih praticamente smonta com'è che fa lei? Smonta i piselli dall'A alla Z praticamente, no? Assolutamente, le smontiamo che senso le e le rimontiamo pure finché le lasciamo smontate. Smonta no? E rimonta il pisello dall'A alla Z qualsiasi problema tu puoi avere è Lego, però cosa vuol dire? No, ma, per esempio c'è la famosa cosa dell'aumento della lunghezza e del diametro sì. Allora, quante persone, la maggior parte dei suoi interventi sono su questo, professore? Ma calcola comunque che questa è una delle tante richieste che vengono fatte, ma noi comunque facciamo la chirurgia ricostruttiva del pene che ti posso dire, per esempio per le persone che sono nati con delle malformazioni congenite, oppure per le persone che hanno avuto incidenti o vabbè, quello d'accordo, ma c'è chi chiede, di farselo diventare più lungo, addirittura di aumentare, sì. Assolutamente, questa è una richiesta molto frequente, molto frequente di quello di cui si pensa. Ma scusi, anche professore, non posso aiutarvi in alcun modo, perché diciamo sono felice di essere ben armato. Beh, se possono fare anche... Beh, felice di essere ben armato, mai dire mai. Fare anche le riduzioni, sì. No, mi interessa le riduzioni, benissimo. Ma in che senso le riduzioni? Volevo sapere, si occupa anche delle teste di cazzo lei, perché l'elenco qui alla radio è lungo, quindi se si occupa anche no, delle scusi teste professore di cazzo... però questo qua è molto curioso come cosa qua, c'è al di là dell'aumento, e penso che lei va donato da Varese, sì, in rari casi ho fatto anche le riduzioni. E perché? Perché è troppo lungo? No, troppo lungo, ma troppo grosso. Addirittura? Sì, sì, c'è qualcuno che magari è talmente grosso che non può avere normali rapporti sessuali. E quando cioè, tipo, che caso, senza fare nome e cognome, che cosa si è presentato di fronte a lei, per esempio? Che 30 centimetri, oppure la circonferenza? Ma una circonferenza veramente enorme. Tipo? Veramente enorme. Tipo quella di un animale famoso, famosissimo, insomma, che tutti noi conosciamo. E qual è? L'elefante. Beh, no. Stiamo parlando del ciuco, cosiddetto. Ah, l'asino, è vero. Sì. Ah, ma scusi, professore, mi dica un esempio di un diametro pazzesco che le si è presentato davanti. Beh, calcoli, sei arrivato anche a 25 centimetri 20... di circonferenza. 25 di circonferenza. E si chiedeva l'intervento. Praticamente non è compatibile con un rapporto sessuale normale. Mamma mia. Questa persona non può penetrare. Addirittura a un paio di persone avevano il glande quadrato. No, quadrato. Quadrato come, ma che porcheria. Che ti posso dire? Come che porcheria? Perché porcheria? Fa schifo, di, una porcheria, fa senso. Ah, addirittura quadrato, cioè invece di averlo, diciamo, tondo così, quadrato. Quadrato. Tipo martello, il pesce martello, insomma, una cosa del genere. Uno ride, ma so drammi, Parenzo, eh. Uno no, ride. Queste sono patologie, comunque. Bellissima questa voce. Questa voce così soave, un po' palestinian, un po' araba, arabeggiata, nonostante, come dire, ormai l'italianità accertata, la frequentazione, Messina, tutto. Dottor Jamal Salì, certo il dottor Jamal Salì. Ma per forza parla, opera pene, opera tu. Però professore, scusi, un caso invece di un pene molto lungo. No, di un pene molto lungo. Lei è di religione islamica, no? Sì, immagino. Sì, ecco, ma non si sente offeso? Bravo. Mia famiglia, bravo. Ma non si sente offeso anche da Cruciani, quando Cruciani la considera un potenziale? Ma che gliene frega questo della religione? Jamal Salì, andrologo, venuto qui in Italia, raddrizza i piselli, è islamico. Ragazzi, bisogna fargli un monumento a questo. E io, infatti, ti sto facendo un monumento. Tutti sti miserabili che chiamano, che dicono. Scusi, professore, ma a proposito, prima di parlare dell'allungamento del pene, ma è vero o no che c'è una teoria secondo la quali i terroristi sono anche un po' repressi sessualmente? Secondo lei è vero, i terroristi islamici? Assolutamente, credo di sì. Cioè, mi spieghi un po'. Sì. Ma credo di sì, perché una persona comunque repressa mentalmente, una persona che non è capace di affrontare e conoscere gli altri, sicuramente avrà tante di quelle repressioni psicologiche, compreso anche quelle sessuali. Dunque, secondo lei un terrorista... Io non credo che una persona... Sì. Che vive normalmente, che ha una vita serena, tranquilla, in cui esprime la sua sessualità in una maniera naturale, possa essere normale, terrorista, possa fare terrorista. Non può mai diventare, non può mai ammazzare un'altra persona, perché una persona normale avrà, che ne so, dei figli, avrà dei fratelli. No, questo è molto interessante, perché dicono che i terroristi in generale sono tutte persone che hanno dei problemi sessuali molto gravi. Ma assolutamente, anche perché comunque avere dei problemi sessuali nell'età infantile, non risolverli durante la giovinezza, e non riuscire ad esprimere la propria sessualità in una maniera naturale, comunque reprime, chiude e isola dagli altri, e di conseguenza potenzialmente puoi diventare un criminale, puoi diventare un terrorista, uno psicopatico, e puoi diventare anche un terrorista. Allora, fermi tutti, torniamo dopo la pubblicità con il mitologico professor Jamal Salì, palestinese ma praticamente italiano, il quale potrebbe in teoria ricucire e ricomporre, se lui vuole, ma pare che non voglia, il pisello di Parenzo, tra un attimo. Scusate, io non c'ho un euro, cosa cazzo me ne frega della borsa? La Zanzara. You can't see the morning, but I can see the light. Brigate Zanzara, partito crucianista combattente, comunicato politico numero uno. Vegano nazistello, ancora cuoce l'agnello. Cruciani, ti prego, mi togli una curiosità. Perché cazzo avevi un salame nello studio? Ah, Cruciani, ormai è guerra aperta, dai. Cruciani, c'è il mondo della zanzara contro i nazi vegani. Gli facciamo un culo esagonale, esagonale. Che ci vengono a prendere davanti a tutti i banchi frigo, tutti i banchi salumi di tutta Italia, che ci vengono a rompere i coglioni davanti. Quando prendiamo il prosciuttino del maialino, della mucchetta, che ci vengono a rompere i coglioni. Li mangiamo vivi! Donato da Varese, Mauro da Mantova, Riccardo da Roma guideranno la Guardia Nazionale a difesa di Cruciani. Cruciani, allora sono stato al mattatoio a vedere se mi impressionava vedere quando ammazzavano l'agnelli. Beh, veramente dispiace un po', perché poi dopo che l'hanno ammazzati gli fanno un buchetto vicino alla gamba e li gonfiano con il compressore per far staccare la pelle. E mi è dispiaciuto un po', comunque gli ho detto mi pesi quello là di 9 kg, me l'ha pesato, me lo so portato a casa e me lo so fatto arrosto. Crucià, mia moglie per Pasqua mi voleva fare la pastiera napoletana vegana col tofu al posto della ricotta. Non è che conosci un buon avvocato divorzista. Siamo qui, la zanzara, 800 24 00. Non mettetemi l'annuncio dei numeri, dai, mettetemi l'annuncio dei numeri. Zanzarosi, contattateci all'800 24 0024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Caro Parenzo, ma adesso tutte le luci sono puntate sul professor Jamal Salih, andrologo, palestinese di nascita, messinese d'adozione, direi italiano, adesso residente a Roma, andrologo, grande esperto del pene, di tutto quello che riguarda il pene. Voglio sapere dal professor Jamal Salih, che già ci ha detto di aver incontrato una volta un diametro di 25 centimetri, che francamente è una cosa improponibile. Una circonferenza, circonferenza di 25 centimetri, ma invece la lunghezza massima che ha dovuto, come dire, affrontare, professore, uno che ha chiesto di essere, come dire, in qualche modo tagliato, no? Si può dire in termini ridotto. Che comunque quelli che ce l'hanno solo lungo, ma non lo hanno troppo grosso, comunque non chiedono mai. Non chiedono mai. Quella era per una questione veramente di praticità nel rapporto sessuale che l'abbiamo dovuto ridurre. Assolutamente, ma il professore è molto tecnico in queste cose, come bisogna essere tecnici e non fare ironia come fai tu, Parenzo. Si può fare anche l'ironia, qual è il problema? Professore, se può estendere la sua sapienza anche alle teste di cazzo di cui la radio, di cui gli ascoltatori Bacino. Professore, che cos'è la labioplastica? Perché lei mi sembra che pratica anche la labioplastica. La labioplastica praticamente è la abbellimento, il ringiovimento delle piccole labbra delle donne. Ma veramente qualcuno chiede una cosa del genere? Assolutamente, sì, sì. Quante persone più o meno? Migliaia, no? Beh, sono tante, tantissime. Comunque è una chirurgia che è iniziata in America, questa. Cioè, ma com'è? Cioè, il rimpicciolimento che vuol dire? Cioè, rendere le labbra praticamente, se noi immaginiamo la forma triangolare. Sì, come bene, no? Immaginiamo tutti, perfetta. Sì, perfetta. Tante donne ce l'hanno talmente a forma allungata, affusolata. Addirittura in alcune donne ho notato la presenza di un ciuffo di capelli. In che senso? In fondo. Ah, in fondo dove? Scusi. Cioè, praticamente all'incima, in cima di questo affusolato, sì. Bene, è una cosa mostruosa, però. Esce dalle piccole labbra. Sì. E tante donne ce l'hanno veramente lunghe, che le danno fastidio, a parte che accavallano addirittura durante i rapporti. Perché è una cosa pazzesca. Lei dice che esiste la labioplastica, cioè per trattamenti di labbra troppo stese, diciamo, troppo lunghe. O addirittura anche non perfettamente simmetriche. Immaginiamo che un lato è più lungo dell'altro, per cui la donna richiede praticamente di metterle a posto. E queste qua sono interventi frequenti. Sì. E qualche volta c'è praticamente moglie e marito vengono qualche volta insieme? Beh, devo dire che è capitato, ma è capitato veramente poche volte. Cioè, che cosa chiedono, per esempio? Per esempio, la donna si è fatto dei figli, magari ha la vagina troppo larga, sì, e per cui una riduzione, cioè una vaginoplastica praticamente. Ok. Si va a ridurre il diametro o la, sì, circonferenza della vagina. E l'uomo? E l'uomo invece vuole l'ingrossamento, per cui si fa un pacchetto famiglia, come hai detto te. Si fa da un lato l'ingrossamento, dall'altro lato il restringimento vaginale. Cioè, restringimento vaginale da una parte, sono capitati casi di coppie che si sono presentate per fare questa cosa qua. Sì. Sì. Restringimento vaginale e al rafforzamento del pene, diciamo. Esattamente. Per provare di nuovo l'emozione. Sì, sì, sì, assolutamente. Ed è una richiesta assolutamente legittima. No, cioè, ma perché è tutto legittimo. Ha la vagina troppo larga, ha poca sensibilità, non sente il membro, non sente alla penetrazione. Certo, assolutamente. Per riprovare, sì, certe sensazioni, come quasi dello sverginamento, diciamo, no? No, quanto comunque di un rapporto sessuale che in fondo deve essere soddisfacente. No, ma è assolutamente, per carità. Dunque, questa è veramente una grande novità. Cioè, il pacchetto famiglia del professor Jamal Salih prevede... Sì, ma salva coppie, salva... Bravo, professore, un salvatore dovrebbe essere... Assolutamente. Pari a quelli che lavorano all'ONU, alle Nazioni Unite, ai mediatori di pace. Cioè, è un uomo effettivamente che è importante. È una richiesta trasversale, cioè non c'è... Per esempio, se noi parliamo della chirurgia del seno, per cui la mastoplastica, le protesi, magari tantissimi anni fa era una cosa che veniva fatta alle attrici, che veniva fatta alle persone che sono... Ora è più popolare, certo. Ora invece anche la cameriera, anche la ragazza che lavora... Quanto costano, per esempio, interventi di riduzione, che ne so, sul pene? Quanto costa un intervento, più o meno? Ma calcoli che la chirurgia del pene può costare intorno ai 5-6 mila euro come manualità del chirurgo, più la clinica, l'anestesista, gli esami, per cui 10.000, sui 10.000. Anche a 10.000. Senta, l'allungamento quanti centimetri può portare l'allungamento? Ma dipende da quella che è la struttura originale. Il massimo non più di 4-5 centimetri. Cioè, uno si fa ammazza così per avere 4-5 centimetri? Beh, comunque non sono mica pochi, eh. Se tu calcola uno che ha, che ne so, 10 centimetri, che arriva a 15... Vabbè, certo. E il diametro invece di quanto si può aumentare? Ma la circonferenza generalmente si aumenta del 30%, mediamente. Del 30% addirittura? Sì. Ma sarà dolorosissimo, professore, un intervento del genere? Ma no, assolutamente. Poi un'altra specialità del professore è un'altra cosa. Io ho visto sul sito, c'è scritto "parliamo di curve". Uno dice, vabbè, parliamo di curve. Sì, uno pensa alle curve d'ascolto, forse. Le curve d'ascolto, oppure le curve dell'autostrada. No, è il pisello ricurvo. Beh, straordinario. Anche quello. Ma scusi, professore, ma veramente si presentano dei casi incredibili di piselli ricurvi da lei? Il pene può essere curvo in tutte le direzioni. Ma addirittura a 90 ci sono peni. Ci sono peni in alto, in basso. Ci sono peni di 90 gradi, curvi di 90 gradi? Anche di più. Ma no, ma dai. A manico d'ombrello, a S italica, possono essere addirittura... Ma veramente ci sono casi di questo tipo? Ruotati. Sì, ruotati, cioè con praticamente la parte del frenolo, piuttosto che stare su, David. Piuttosto che stare su. E si può intervenire? Sì. Cioè, si può come rimettere tutto prima, a posto, si smonta e si rimonta tutto da capo. Si smonta, però non parli così di questo. È numero uno, professore. Un abbraccio, presto, ci risentiamo presto. Grazie tanto. Un abbraccio grande di Gerico, Palestinian, Parenzo, Palestinian, Arab. Non gliene frega niente. Bravo, in realtà. Bravo. Ciao. Che vuole Enrico Rizzi? Ma che vuoi, Enrico? Che vuoi? Cosa vuoi, Enrico? Cosa vuoi? Hai già detto che hanno fatto bene a tentare di picchiarmi. Hai già scritto questo. L'ho già notato, l'ho già letto. Cosa vuoi? Lo so, Cruciani mi ha risposto. Ma cosa guarda, vuoi, Enrico? Cosa vuoi? Voglio essere più deciso del solito nel dirti due paroline soltanto, perché non mi va più discutere con te, onestamente. Ma che significa? Hai chiamato tu? Non mi va più discutere con te. No, ho chiamato io giusto per annunciarti che il giorno 8, visto che starò a Roma per aspetta, sarò ospite a una televisione che ci sarà lì, parlerò sia di te, sì, e l'8 pomeriggio sarò sotto la tua radio. Sì, ma solo che io non sono a Roma, sono a sono trovi a me però sotto. Sono a Milano, amico mio. No, ma scusa, non sai un cazzo! Non sai un cazzo! Scusami, hai ragione, Milano, no, sto a Milano da te, quindi non ti preoccupare, non è quello. No, sto a Milano. Vabbè, allora? Sono ospite in una televisione, quindi l'8 pomeriggio. Vabbè, che cosa vuoi? Sarò lì sotto da te, organizziamo un'altra manifestazione. Ma tu puoi organizzare tutte le manifestazioni? Ne facciamo tantissime altre, guarda, ti dirò di più. Cioè, sì, guarda, prima o poi ci sarà qualcuno, non è una minaccia la mia, è un semplice avviso, prendilo come avviso. Ma no, l'altra ma volta ti è finita bene, se tu continui a rompere le balle, sì, in questa maniera, sì, ci sarà qualcuno che ti lascia secco, steso per terra. Cioè, questa non è una minaccia, è di più di una minaccia. Bello, ti denuncio, Rizzi, ti sto denunciando, ti denuncio. Conviene questo punto. No, non è una minaccia, guarda, è una. Cioè, tu ti auguri che qualcuno mi spari? No, a parte sparare lo stai dicendo tu, io non mi auguro assolutamente. Qualcuno che mi fa secco. Sì, guarda, perché tu meriti questo. Ah, vedi, merito di essere ucciso. Merito di essere ucciso. Bene. Tu intanto pensa a pagare 700 euro. 700 euro. Perché hai insultato quello morto, il cacciatore morto. Molla 700 euro intanto. Ne riparliamo. Io ti sto chiamando per una. Vergognati. Ma guarda, se dobbiamo parlare di mostre ne riparliamo. Io ti sto dicendo. Caccia 700 euro. Ma chi è Roberto? Il ragazzo che hai parlato tu l'altro giorno, sì, quel teppista là sotto, sì, quello là, fronte animalista, sì, esatto. Come ti ha detto Roberto, allora, fin quando tu parli in radio, dici le fesserie, scherzi, eccetera, te l'ho concesso pure io, mi hai chiamato, ci siamo fatti le battute. Beh, qual è il problema? Qual è il problema? Ma quando rompi le balle, cominci a portare gli animali morti in radio, porti l'agnellino in radio, eccetera. Beh, che c'entra? Fai girare le scatole. Faccio girare le scatole. A girare le palle, capito? Senti, molto le Enrico, palle. E quindi quello che succede? Non lo capisco. Enrico, non lo devo fare, ma che me lo dici tu quello che devo fare o no? Non istigare alla violenza. Come istigare alla violenza? Ma che istigare alla violenza? Ma fai silenzio, sei tu che hai appena detto che mi merito di essere ucciso, vergognati. Io non ho detto. Sì, l'hai detto 2 secondi fa. Qualcuno ti lascia stare. No, e fanno bene, hai detto. E fanno bene, hai detto. Ah, e questo che cos'è, scusa? Che cos'è? Guarda che incredibile, guarda. Ma questo Andrea è pazzo. Stai alla violenza, stai rompendo le palle ogni giorno. Io faccio la mia, faccio il mio mestiere, se non ti piace. Benissimo. No, non ti sto di E che cosa faccio? Offendo gli animali? Offendo gli animali? Derido gli animali, come dicevano quei fessi là. Derido gli animali? Luciani, ascolta, fammi parlare un attimo. Ti dico una cosa, io ti ascolto quasi ogni giorno perché nell'orario in cui bene, ottimo. Allora rientro a casa. Ti dico di più, in alcune cose sono pure molto d'accordo con te. Ma allora qual è il punto? Lì, no, qua è il punto che ti ripeto, fin quando tu dici mi mangio l'agnello, il coniglio, e allora? mi va bene, e allora? Ma non portare gli animali. E perché che è proibito? È proibito? No, non è proibito. E allora? Tu istighi, quello istigo. Istigare la violenza. Ma perché? Cosa ho fatto? Che ho fatto? Me lo sono mangiato, cosa che avrei potuto fare tranquillamente, non quello tu presente istighi. Lì. No, non lo puoi, ah, non io puoi istigo. Ammazzare un animale in radio. E infatti non l'ho ammazzato. Quello è infatti non l'ho ammazzato. Ma al di là di quello, tu istighi. Io istigo. Ma tu sei fuori di testa. Elevata. Animali. Tu tutto sei qua, completamente capito? Pazzo, questo è il punto. No, sei completamente pazzo. Io ragiono benissimo, ti sto dicendo. Ripeto, non voglio parlare della figuraccia che hai fatto. Quale figuraccia? Fatto quotidiano ti ha ascoltato alla grande. Fatto quotidiano? Ma che cazzo me ne frega a me del fatto quotidiano? Io rispondo agli ascoltatori, non al fatto quotidiano, amico mio. Gli faccio vedere io. Poi io non ho mai detto gli faccio vedere io. Mai detto. Una ragazza mingherlina bionda, piccolina. Vabbè, ho già spiegato questo. Ah, perché adesso sei diventato pure violento tu. Sei diventato anche violento. Beh, sì, lo sei, perché dici che. Violento, questo non è sicuro. Certo, come no, è chiaro. Ma i ragazzi ti hanno detto che ti volevano parlare. Ti hanno detto scendi. Senti, Enrico, non sei un cazzo, arrivederci. Ma come non so, ci sentiamo nei prossimi giorni. Non sai niente, dai. Non sai niente. Ti perdono perché non sai niente. Ci sentiamo nei prossimi giorni. Ti perdono. Ma mi perdoni di cosa? Ti perdono. Mettiti in ginocchio che ti perdono. Mettiti in ginocchio. Mettiti in ginocchio che ti perdono. Vai. Non è una condanna, caro. Mettiti in ginocchio che ti perdono. Non sai niente. Ti perdono. Non le pago e faccio pure ricorso, caro. Ah, fai ricorso è una cosa. Intanto le paghi. No, non pago niente. Non pago. Ciao, Enrico. Molla i quattrini. Farò opposizione. E vabbè, ma intanto 700 euro di multa. Ma 700, ma pure 10.000, non le pago, caro Cristiani, non le pago. Ciao Enrico. Ci vediamo l'8 aprile. Ciao, vieni pure l'8 aprile, non ti preoccupare, vieni. Ragazzi, ci sentiamo domani, Ciao, ciao. Chi osa toccare Cruciani muore. Animalisti, attenzione.